E allora 11:23 sulle libere frequenze di Radio Blackout 105-250. Siete come ogni martedì mattina all'ascolto di Parole Ribelli, ma non come ogni martedì mattina ci siamo in studio io e Francesca. Vi ciao a tutti e tutte da Eddie, perché Francesca è qui, vi aggiorno appunto, immagino che se l'info avrà già dato... avrà già dato la notizia, continuano gli aggiornamenti. Stamattina, come di consueto durante le campagnuscole elettorali studentesche, dalle fogne è ricicciato fuori il Fuan, che ovviamente coperto da un copioso coperto da l'assolito schieramento di sbirri che garantisce la possibilità di volantinare a questi infami, nella tra parentesi tranquillità della rappresentanza studentesca che lì accanto dava i propri volantini indicando timidamente che comunque quelli accanto erano fascisti. Bene, due compagne, tra cui Francesca, chiaramente basite di fronte alla scena, hanno preso questi volantini, sono intervenute buttandoli per terra, dicendo che lì non avrebbero potuto volantinare, che la nostra università è antifascista e scusate, oltre all'agitazione ci si mette anche di mezzo la salute. Fatto sta che sostanzialmente il risultato è che quei pezzi di merda in blu, come al solito, hanno portato via le due compagne, Francesca e Giulia. Adesso aspettiamo aggiornamenti, ci mettiamo subito in collegamento con il campus per sentire chi è ancora lì. L'appartenenza incisa con il cerchio e con il fulmine, marcato dagli impicci, allergico ai feticci, tanti bei discorsi e poi si vendono per due spicci, fatti non capricci, gente vera non posticci, se giochi con il fuoco poi finisci nei pasticci, meticci, ribelli, artisti, ladri in questo mondo sono, anime dannate giù dal basso fondo, non mi nascondo, ok? Siamo in diretta, cronaca di strada dalla parte della teppa, V4 Vendetta, un simbolo che infetta, segnali discontinui in questa trappola perfetta, saetta d'energia umana, fuori dalla tana con il coprifuoco, sei un player? Allora fai il tuo gioco, guardati la schiena se conosci la cancrena che avvelena questa arena, supporta la tua scena. Solo 20.000 metri, noi divisi in parte siamo il doppio se ci uniamo, 20.000 metri, solo 20.000 metri, il futuro è nostro, racconta quanti siamo, 20.000 contro fatti di reietti, la strada in quarantena, troppi a farsi troppo a darci dentro con il cocco, troppi a farsi brutti sopra il ciocco, all'occhio, è un secolo di insidie, un dedalo di invidie, tu ricorda che il più infame ti sorride, resto sul chi vive, difendo la contrada, so bene quanto valgo del rispetto della strada, là fuori è Torquemada, siamo tutti di passaggio, ricorda che il problema è l'atterraggio, la pena è il contrappasso, l'ipoteca sul domani, dall'alto verso il basso, conto tutti e 30 i piani, con gli ultimi moicani, lontano dagli scami, signor K con le combo sul tatami, coi ragazzi cattivi che fanno a botte con i congiuntivi, che nella merda stanno a galla come mezzi amfibi. fuori, batti cuore. 20.000 mezzi, solo 20.000 mezzi. Noi divisi in bande siamo il doppio se ci uniamo. 20.000 mezzi, solo 20.000 mezzi. Il futuro è nostro, racconta quanti siamo. 20.000 mezzi, solo 20.000 mezzi. 20.000 mezzi, solo 20.000 mezzi. 20.000 mezzi, solo 20.000 mezzi. Quel giorno sarà guardie contro guardie di reietti. E allora 11:31 sui 105.250, le libere frequenze di Radio Blackout. Come dicevamo in apertura, diamo un po' di aggiornamenti su quel che sta succedendo in Palazzina Einaudi. Siamo in collegamento con, ecco, sentiamo i cori, siamo in collegamento con Mattia. Mattia, dici un po' che cosa è successo. Sì, buongiorno. Allora, vabbè, le ultime sono che adesso siamo sempre in presidio, che siamo andati a sanzionare la loro aula. Vabbè, comunque facciamo... Penso che sia il caso di fare un excursus della mattinata. Sì, no, diciamo i compagni e le compagne, che cioè gli ascoltatrici e gli ascoltatori un minimo sanno, sono arrivati okay. Fino a poco tempo fa che tra info e parole ribelli abbiamo dato l'informazione appunto delle due compagne che sono state allontanate, okay. Mentre giustamente non facevano altro che ricordare a chi era presenti che quelli erano volantini di un gruppo fascista, nulla di più, nulla di meno, e sì, appunto sì. Da lì in poi un po' che okay. Cosa è successo? Beh, da lì in poi comunque abbiamo il presidio è continuato, come dicevi tu, dopo che le due compagne e le due studentesse sono state prese appunto dagli sbirri, abbiamo continuato il presidio come succede sempre a Torino, fortunatamente si è infoltito di gente e quindi dopo un fitto lancio di uova, dopo diversi cori, stiamo parlando appunto dopo 5 minuti, la Digos e gli sbirri si sono messi a proteggere la loro uscita dall'università e mentre stavano proteggendo la loro uscita in università, comunque sia, ci sono stati da parte degli sbirri diversi spintoni rispetto agli studenti, che comunque come studenti ci si è ricompattati, si è fatto un giro nell'atrio del campus, nella palazzina e quindi a livello comunicativo la roba sta riuscendo molto bene. Sta di fatto che comunque siamo proprio per questo che stiamo parlando con gli studenti, il presidio si sta infoltendo, siamo ancora qua, abbiamo fatto un giro nell'atrio e ci siamo diretti verso la loro aula appunto per sanzionare. Da notare che vicino alla loro aula c'era appunto questa aula studio che era piena di studenti e questi studenti parlando con loro si sono mostrati molto solidali e quindi questo è stato un dato che ci ha permesso quindi di sanzionare l'aula. Adesso siamo scesi, stiamo continuando il presidio comunicativo, comunque sì, c'è tanta bella gente, o meglio c'è la nostra bella gente, ecco. Bene Mattia, grazie mille. Sicuramente ricordiamo i contatti, lo 011 24 95 669, per chiamarci e darci qualunque tipo di aggiornamento, il 346 66 73 263, per scriverci e per anche porci eventuali domande, perché la radio è sempre a disposizione per diffondere l'informazione sulle lotte. Allora mi raccomando, continuate il presidio. Ok, ringraziamo per la diretta. Ringrazio anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout. Ciao Mattia, grazie mille, ci risentiamo per qualunque aggiornamento. Assolutamente, ciao ciao. E allora, come appunto, come diceva Mattia, per fortuna che la sensibilità riguardo all'antifascismo, alla presenza di fascisti nell'università è appunto ancora abbastanza alta e ricettiva, soprattutto in una città come Torino, in cui comunque la presenza di organi come una Casa Pound o varie altre non sono mai state determinanti, e quindi poi si vede anche il loro scivolare fuori dalle fogne una tantum per accattare qualche votino in università, suona anche, stride un po' chiunque, anche diciamo a chi non è proprio solito prendere parte a iniziative di antifascismo e militante, ma chiaramente quando alzano troppo la testa dà fastidio a tutti e tutte. E allora abbiamo visto negli anni scorsi, ogni volta che si sono presentati sono stati cacciati, anche questa volta sono stati cacciati e non se ne sarebbero andati indenni se, come Mattia ci ha raccontato, la polizia non li avesse ancora una volta protetti. Io vi lascio un po' di musica e soprattutto ACAB. Even players, whether you hate us or you show us love, no matter what you do, money, stack your guns and bonds. Is you with me? We'll throw your hands in the air. All my thugs and soldiers, fuck it, even players. Crooks, willies, pimps, all my sons. No matter what you do, baby, stack your guns and bonds. Light a number and elevate on this one, my brother. Respect mine like my baby mother. I shine when it rains. The sky's crying for all the black youth that's dying. I heard he went out clutching his iron, and in the midst of slugs flying, one burst he kissed the dirt. Not knowing he was touched at first, so badly hurt. It's all science. Another nigga murk. Kid snatched his purse and his work. Left nothing but the shells on the turf. The situation's worse. A lot of bitch ass niggas is coming out their skirts, cause it's rare. Not everyone can rhyme and get a dare. Not everyone can shine and make a meal. So Johnny carry nine in the stair. One in the head for all them fuckheads. Leave that ass for dead, no said. Don't be mistaken or misled. It's all peace, but when my babies gotta get fed, I'm on teeth, biting down on the bullet now. Bloodshed, I caught my herb from a naughty dread and live this life on the edge, nigga. One time, give up on yourself. Gang, are you with me? We'll throw your hands in the air. It even players. Heads on lockdown and O's on the run. No matter what you do, money, stack your guns in one. Hey, yo, keep the stamina of the main brain splatterer. In a matter of seconds, I'm disrespecting your character. What's the matter? Your niggas ain't ready for the massacre. I be slapping y'all niggas in the face with the caliber. You like the voice, baby? Ruck is the choice lately. Slap a hoe in the grapple hole just like Royce Gracie. My boys pay me no mind for the shit I say lately. They're deep down in their heart, they think that nigga Ruck is crazy. Maybe y'all niggas should just chill before I fuck you up. I can snuff a young nigga in the face with the uppercut. What the fuck? Y'all niggas do with the bike moving. Your life by screwing. Your wife now cruising. Effect with the motherfucking grimy style. Met the cow, health is yelled for the 90 now. Remind me how the way it used to be. Yo, you used to be better than you is on the mic, but now you lose. So is you with me? We'll throw your hands in the air. All my soldiers thugs, fuck it, even later. When did you rap for a living and sell drugs for fun? No matter what you do, stack your guns and run. Son, I used to be your good boy. Fat cheeks, little cute kid, potentially rebellious, yet a straight A student. I listened to my elders till I found out they were stupid. They told me had me broken, but me time for some new shit. Now I hold mo conceal heat and Acapulco. Rickens and Bush, we call me Rocco, El Mano Loco. Got a foco to be thug sing like KC and JoJo. Back in ever since, Mama Rock said guns was a no-no. We don't need those though. Street cats don't need gas. 6'5 from the NBA, man, the niggas beat ass. So try me, like Mutombo, you can't get shit by me. Send you the ER, son. With broke ankles like Allen Ivy. Hold that door for a minute and watch a shorty before I run up in it. I ain't been it, I'm like got you shaking, thinking I'm Jamaican. But it's Thursday to get your jewelry and no taking. Fuck Batman and Robin, I'm Robin with a Batman. Chase niggas like Chevy for making whack hands. Hit hard as a dick after a lap dance. Ask any Sean Price and Alcatraz, man. They tell you, watch the jab. So when you with me, with all your hands in the air, all my soldier stuff, fuck it, even player. Gods, herbs, and cons, Crips and blood. No matter what you do, money, stack your guns in ones. Is you with me, with all your hands in the air, all my soldier stuff, fuck it, even player. MSC, Killer Bees, and my outlaw thugs. Armor getting soon come, stack your guns in ones. Skelter come stack soon. Your guns and ones. Bitch, prepare, motherfucker. Stack your guns and ones. These ain't nobody safe, motherfuckers. Stack your guns and ones. Marvelous. Stack your guns and ones. Helter Skelter. Stack your. E allora alle 11.39, in netto ritardo in realtà, poi entriamo nella puntata di questo martedì mattina un po' funesto per Parole Ribelli. E allora andiamo un po' a presentare quello di cui andremo a parlare. Andremo andremo in collegamento con Giuliano da Pisa per darci qualche aggiornamento su quello che è il percorso di lotta che, mai scoraggiato, continua ad andare avanti rispetto al diritto all'abitare, rispetto alla lotta del per il diritto alla casa e per la dignità della vita di tutti e tutte. Bene, il 10 marzo contro la legge Saccardi alle 14.30 a Firenze, un percorso appunto che vede una lotta regionale, perché poi di fatto nella quello che è il piano casa, l'attacco frontale alle occupazioni, alla realtà appunto conflittuale abitativa, è di fatto poi nella sua seconda tranche è passato in mano all'organo regionale per quel che riguarda la parte attuativa. Allora sicuramente in Toscana appunto stiamo vedendo un'organizzazione contro questo attacco, che un'alzata di testa di tutte quelle occupazioni che anche sono state appunto recentemente, abbiamo visto a Firenze, sono state attaccate in maniera abbastanza feroce. Bene, ci metteremo in collegamento con Giuliano tra poco proprio per andarci a raccontare questo percorso. Andremo poi a sentire un po' dal mondo della formazione in università a Bologna, nella memoria l'esempio nella lotta alla pratica, si andrà a costruire ad aver luogo tra poco nell'università di Bologna una o due giorni dedicata anche a Francesco Lorusso. Ricordiamo appunto anche l'anno scorso in città, sempre un po' sul tema anche dell'antifascismo, ci sono state delle date importanti, un po' a conferma anche di quello che dicevamo in apertura, un po' anche a sottolineare quanto a genuinità c'era nella diretta che Mattia ha fatto poc'anzi, perché effettivamente appunto la sensibilità rispetto al tema, grazie al cielo, è ancora piuttosto alta. Andremo poi a andiamo poi invece su un po' sul locale tra le varie, saltiamo un po' a pie pari la rassegna stampa perché si è fatta una certa, e andiamo sul locale verso il corteo del 14 marzo. Tutti e tutte conosceranno l'occupazione dell'ex MOI, delle palazzine dell'ex MOI, l'ennesimo scempio e maceria lasciato su questa città da il turbine olimpico, che non ha conosciuto nessuna utilità se non quella di essere una voragine di debito finché non c'è stata questa occupazione da parte di centinaia e centinaia di rifugiati dell'emergenza Nord Africa. E allora questa occupazione va avanti da un bel po', e però è evidente che in questa il decorso della città, insomma, c'è una voglia di mettere a valore tutti i pezzi di suolo possibili e immaginabili. E allora ecco che sono venute fuori le questioni, la città della scienza, l'innovazione, come del resto la cittadella del design a Mirafiori, piuttosto che lo sgombero della cavallerizza per le residenze studentesche. Ecco, dietro questa, noi diciamo da un bel po' da queste parti, proprio perché al mondo della formazione comunque diamo sempre una rilevanza sostanziale, la nostra, che è da lì che il nostro sguardo parte. E però appunto dietro la Torino dei giovani, dell'università e della cultura, altro non ci sono che queste operazioni di speculazione veramente patetiche che che come al solito ci vedono, cioè che ci vedono assolutamente attenti e pronti nella, con ogni mezzo necessario per ostacolarle. Adesso vi lascio a proprio un assaggino musicale mentre ci mettiamo in contatto con Giuliano. E questa canzone è ovviamente per Francesca e Judith. Oh, you too, nigga. Don't think we ain't talking about your punk ass. You fake ass nigga. Here we go, turn it up, let it start. From block to block, we snatching hearts and jacking marks. And the punk police can't fade me, man. You can have peace someday, G. But right now, I got my mind set up. Looking down the barrel, I'ma not get up. Cause it's time to make the payback fat. Tell my brothers on the block, better stay strapped. Black, and accept no substance. Smash, blast, how long will it last? To the pole, getting more cash. Until then, raise up. Tell my young black males, blaze up. Life's a mess, don't stress. Test, or give him, but be thankful that you're living. Bless. Much love to my brothers in the pen. See you when I'm free, if not when they shut me in. Thought for life, high till I die. Shooting crooked ass cops, let me fry. Tell them, thought for life. High till I die, shootin' crooked ass cops, let me fry. Tell 'em, thump for life. High till I die, shootin' crooked ass cops, let me fry. Tell 'em, thump for life. High till I die, shootin' crooked ass cops, let me fry. Pump your fist like this, holler if you hear me. Pump, pump if you're pissed. Till I sell out, just living it up. One way or another, you'll be giving it up. I guess 'cause I'm black born, I'm supposed to say peace, sing songs and get capped on. But it's time for a new plan. Bam! I'll be swinging like a one-man clan. Thump for life. High till I die. Shooting crooked ass cops. Let me fry. Tell them. Thump for life. High till I die. Shooting crooked ass cops. Let me fry. Tell them. Thump for life. High till I die. Shooting crooked ass cops. Let me fry. Tell them. Thump for life. High till I die. Shooting crooked ass cops. Let me fry. Good part about it is that we get to show the human side of what's the cops doing what they do, because it's always my belief that cops are just a gang of themselves, with the good and the bad. Just like I believe the gangbangers on the street got good and bad, like police officers do. They got stress and they got character flaws that come from their lifestyles. I could be the best actor anybody ever seen, given the chance, the opportunity, and the experience and the lessons from people. I could be the best. But right now, I don't even wish to be the best. I just want to be one of them. If you look at it from a stereotypical point of view, like how people say, you know, all your troubles with the law, how could you play a cop? Just from a stereotypical point of view, who could play a cop better? I've seen them and their evil when they think nobody's looking. I've seen the compassion. I've seen the anger. I've seen the jealousy. I've seen fear. I've seen respect. And I've seen hate from cops. More than anybody, you know what I mean? I've been there. I just got out of maximum penitentiary. Realistic, for instance, mash up, what's up? What comes doing? classes. One of the fastest that blasted flashes. Bert, you seen my work, you know my steez. It's a slim chance that I'ma hesitate to squeeze, please. Money never made me, money never played me. And money bet not make me. Crack his ass, subtract his ass when I step through his hood. Fuck dropping you, I'm into stopping you for good. Stop him if you could. And you'll be stiff as a log in a suit looking nice. You're the sinner, nigga. But you ain't cold enough to freeze hot slugs when they run up in ya. You ain't in my class, nigga. I'm the last, nigga. You gon' fuck around and get blast. Sucker ass, nigga. The soul survivor, survivor soul. Nigga, you rollin', I rollin' strong. I told you that I'm cold. Shows called pandemonium. Shit, I ain't concerned until it's my turn. I snatch a mic, jump on the stage and show my ass like Howard Stern. But not in that form. I perform lyrical heat waves that'll keep your brain warm. But when it's on, you fuck around and get ripped up. But get placed in a body bag with that ass zipped up. So tag him. Get him. Even ballistics won't be able to tell how to fofo rag him. Drag him halfway down the block. Now you know where niggas go when the niggas close up, nigga, stop. You're as cold as ice. Fuck you. Tell me something new. On behalf of the first family staff and homicide crews in control. Real niggas won't fall. I told you we were cold. Se apagó la veladora. Dentro me quema solo el fuego eterno de las horas. La soledad, la dama que mejor me acompaña. Yo no le pido amor y ella no me pregunta nada. Y así empieza mi vida en las madrugadas. Yo le hago el amor a las palabras. Es en silencio cuando me hablan las musas. O en medio del maldito caos de esta vida insulsa. No tengan miedo mis vidas para mostrarse. Si quieren le doy mis manos para poder expresarse. Hagamos algo más profundo que el arte. De mis venas sale tinta, humo sale de mis frases. A veces esto me parece poesía y otras veces maldiciones para calmar mi agonía. Es necesario en el mapa de mi vida ubicarme las espinas y abrirme las heridas. Este es un acto de completa desnudez. Esta hoja en blanco exige las mentiras a los pies. Ánimas en pena susurran en mis oídos verdades. Por la voz que soy también voy agregando mis maldades. Las dejo hablar como Judas a Satanás y las transcribo en un compás como esta pista en un pispás. La oscuridad, la reina de la noche y no hay reproche. Cuando sale el sol absorbida estoy en el goce. Yo voy hilando el tiempo en mi ombligo, en mi garganta no hay sigilo y sigo escupiendo versos, prosigo. No escribo para impresionarte, mucho menos opacarte. Si mi palabra no rabia me intoxico en el instante. E allora 11:54 sulle libere frequenze di Radio Blackout, 105.2 e 50. Ricordiamo ancora una volta i contatti: 011-24-95669 e il 346-6673-263 che squilla. Allora, sappiamo che probabilmente che sta chiamando è Giuliano da Pisa, con cui cercavamo di metterci in contatto, ma dato che non riuscivamo, siamo nel frattempo al telefono con Morgan. Ci senti? Sì, ciao a tutti. Ok, allora, come dicevamo in apertura di puntata, abbiamo saltato per ora la legge Saccardi e siamo corsi a Bologna, perché l'11 marzo tutti e tutte in piazza, perché la memoria viva sono le lotte di oggi, come scrive il vostro manifesto. Ma io lascerei la parola a te nello spiegarci un po' questa data, che appunto su cui oggi sentiamo anche particolare in studio affinità, proprio perché quei pezzi di merda del Fuan volantinavano stamattina. Quindi Morgan, dici tu. Ma sostanzialmente, esatto, come recita il manifesto, o meglio la tre giorni che abbiamo intitolato con la memoria viva sono le lotte di oggi, appunto una giornata, anzi tre giornate, per andare a ricordare la figura di Francesco, compagno appunto ammazzato nel 77 dai carabinieri di Cossiga, una storia quindi che di fatto appartiene ai movimenti, ma che da un po' di tempo qua nella città di Bologna aveva perso anche come dire, una ritualità e una sua vera e propria come dire, un vero e proprio ruolo anche all'interno dei percorsi di lotta e di antagonismo all'interno delle mura della città. E quindi sostanzialmente già anche dall'anno scorso abbiamo messo in campo sostanzialmente un passaggio anche per fare in modo che siano i movimenti e non tanto le istituzioni a riappropriarsi di una figura che sostanzialmente non gli appartiene, ma invece appartiene a noi. E sarà una giornata, anzi tre giornate, che partono proprio da oggi per appunto con dibattiti in via Zamboni. Ricordiamo, ci saranno Bifo, poi Filopat, il Duca, con l'inaugurazione della mostra BTP autonomi e punk, fino ad arrivare con una discussione finale con Tano D'Amico su appunto il ruolo delle immagini, l'immaginario nella costruzione della realtà dei movimenti sociali dagli anni 70 ad oggi. Domani poi ci sarà l'11 marzo, che già dall'una come dire, prenderà forma in tutta via Zamboni con una reclaim The Street, tra appunto area un po' più sociale con pranzo e quant'altro, live painting e riappropriazione muraria con Wolfreiter, fino poi ad arrivare alle 6, dove anche con una continuità che daremo comunicativa con Radio Info Out, come dire, arriveremo al corteo che partirà dalle 18 da Piazza Verdi, per concludersi poi con la presentazione del libro dei 99 poste e il DJ set di Zulu. Questo per quanto riguarda l'11 marzo, e mentre il 12 si continuerà sempre al 38 di via Zamboni con altri incontri. Ricordo Romitelli sul ruolo della memoria storica, poi un dibattito sempre del diritto alla casa come appunto un diritto che sia da conquistare da sempre, appunto facendo un po' dando uno sguardo delle lotte degli anni 60 fino a quelle dei giorni nostri, e concludendo poi con la presentazione del libro di Pedro, Vive nelle lotte, insieme al collettivo Scatenati, appunto anch'esso un compagno morto nell'85, ieri tra l'altro era l'anniversario, per cui ricordiamo anche lui all'interno di queste giornate di lotta. Giornate di lotta perché appunto la memoria storica non è tanto qualcosa che rimane nella commemorazione una giornata, ma invece deve essere, e crediamo che appunto questi tre giorni lo sia, l'abbiamo fatto anche per questo, un momento per dare la voce alle lotte concrete, reali, che costruiscono mobilitazione all'interno dei territori, oggi e che appunto all'interno di queste giornate di memoria sì, devono però trovare anche uno spazio che sia accogliente per le loro istanze di lotta all'interno di questi territori, delle nostre città e quartieri. Bene, sicuramente appunto non posso far altro che aggiungere che unirmi al tuo invito, perché sicuramente che la memoria sia un campo di battaglia e non assolutamente così un qualcosa che ereditiamo in maniera completamente neutra e compatta, ma è una costruzione anch'essa. È un processo e soprattutto è un processo di scelta, si sceglie cosa ricordare, allora sicuramente è importante, non è scontata, ma soprattutto non è scontata nella sua articolazione, quella che è la memoria intorno a Francesco Lo Russo, intorno ai compagni che sono, diciamo, che abbiamo perso in quegli anni, ma che appunto non deve essere mai uno sterile piagnisteo, uno sterile sciorinare date o ricorrenze, bensì un stringersi intorno a fatti che poi compongono quella che è la nostra storia, quella che è un percorso che ogni giorno scriviamo sempre nuovo. Quindi bene, grazie mille Vallo per averci presentato questa tre giorni, nella gioia e nella rabbia, tre giorni di Università Ribelle, noi invitiamo tutti e tutte coloro che saranno per Bologna dal 10 marzo ad essere presente in via Zamboni, buona tre giorni e grazie mille. Grazie a voi, nella gioia e nella rabbia anche contro i fasci del Fuan, mi raccomando. Sempre e comunque. Ciao a tutti, ciao, grazie mille Vallo. E allora appunto, dopo aver presentato un po' questa tre giorni che ci tenevamo a illustrare proprio per i motivi che Morgan metteva in fila, perché appunto la memoria non è assolutamente un organo, uno strumento neutro, abbiamo visto anche quanto è importante tenerla come campo di battaglia. Pensate se appunto abbiamo visto recentemente come si costruisce, costruiscono narrazioni che poi sono di una potenza veramente sostanziale, l'abbiamo visto con i vari Charlie, probabilmente se, appunto, senza qualcuno che ritiene la memoria un campo di battaglia, possiamo essere abbastanza certi che ci ritroveremo una narrazione completamente piatta di qualunque cosa, e allora tra 5 anni di quell'evento sarà visibile solo il cordone di Parigi e non invece tutta la complessità anche che è uscita anche dalle banlieue, da tutta una serie anche di soggetti che hanno puntualizzato quanto questa rappresentazione della solidarietà così tout court, completamente liscia e piatta, sia null'altro che il terreno su cui poi appunto si costruiscono anche, anzi di cui vivono le ormai storiche alleanze tra infami, pezzi di merda vari ed eventuali. Al Parlamento è un harem, è in forma, maxi riforma del male, ma si forma male perché lo stivale che sta per dare calci in culo dentro al Quirinale, tanti bla bla, mazza e poi abla di testi biblici e Barabba, comanda la banda di sti politici, io non sono loco ma qua manca poco, se ogni giorno mi sveglio col pensiero di fare fuoco, la mia voglia di furto non manca, purtroppo i coglioni io nel rap, non nelle rapine in banca, la rabbia non va mai in vacanza, manifesta in piazza e prende botte dal porto con la corazza, sì, gli altri giacca e cravatta gridano e fata e brindano alla nostra disfatta, e chi si cazza con sta casta vorrebbe farne fuori uno, sì ma uno non basta, sulle mani qua non si balla, la vita non al clap clap, clandestini in battaglia, spezza le catene con la tenaglia, fai avere, fare alle madri dopo la rappresaglia, sulle mani qua non si balla, la vita non al clap clap, clandestini in battaglia contro chi ha potere di dividere i confini, costretti a vivere tra infami assassini, una vendetta la nazione merda sopra il tricolore più dura, la prospettiva dal foro di una fessura sicura, resa dei conti con rode se brucia dentro, firma da questore per culo se il Parlamento, no no,

ai microfoni di Radio Blackout, una mattina concitata come tutti coloro che sono sintonizzati e sintonizzate da un po' sanno, e siete all'ascolto invece di Parole Ribelli, per chi è appena arrivato sulle libere frequenze di Radio Blackout, i 105.250. Bene, dopo appunto la cronaca un po' di quello che è successo stamattina in Palazzina Einaudi con la cacciata, l'ennesima cacciata del Fuan, ostacolata dalla presenza dei sempre presenti e sempre fedeli sbirri, siamo andati poi a Bologna per un po' rimanere in tema, nel senso che abbiamo visto la tre giorni universitaria che i compagni e le compagne bolognesi hanno messo in campo in memoria di Francesco Lorusso, e non solo, diciamo sfidando un po' quella che è la ritualità delle commemorazioni antifasciste e decretando che la memoria è un terreno di battaglia. E adesso ci spostiamo in Toscana. Come dicevamo in apertura di puntata, abbiamo in collegamento Giuliano. Giuliano, ci senti? Sì, ciao. Allora, ciao Giuliano, noi appunto, come dicevamo in apertura, siamo in collegamento con te perché volevamo un po' un quadro su una situazione che seguiamo da tempo, che è quella della lotta per la casa, ma che in questo momento, diciamo appunto, ha un referente un po' diverso da quello che poteva essere stato un tempo, perché la parte poi attuativa di quella che è il piano casa è passato in mano alla regione. Abbiamo visto appunto come la legge Saccardi di fatto sia un po' il perno su cui si sta strutturando quello che è di fatto un attacco molto feroce al diritto all'abitare in generale, ma soprattutto a chi ha alzato la testa rispetto al diritto all'abitare. Quindi io ti lascio un po' la parola per raccontarci innanzitutto il contesto politico di questo corteo, e poi anche appunto per rilanciare su quella che speriamo sia una giornata di lotta. Sì, appunto, dicevi benissimo te, la legge Saccardi non solo è un tentativo di, diciamo così, applicazione del piano casa nei territori, ma è una vera e propria accelerazione di quello che è un progetto complessivo di smantellamento del welfare e smantellamento del diritto alla casa. Se questa legge dovesse passare, dovesse essere applicata in Toscana, praticamente si andrebbe verso un'accelerazione feroce della fine dell'edilizia residenziale pubblica, in quanto appunto una legge studiata a tavolino per escludere sempre più persone dall'accesso alla casa popolare, eliminando ad esempio i punteggi per lo sfratto dalle graduatorie ERP, e parallelamente andare a mettere in discussione anche il diritto acquisito di chi già una casa popolare l'ha avuta assegnata, se l'è conquistata. Quindi con questa legge aumenteranno i criteri per cui si potrebbe entrare in decadenza dal diritto alla casa popolare, e quindi gli sfratti da casa popolare per motivi sia di reddito, quindi con l'applicazione anche del nuovo ISE tantissime famiglie sarebbero considerate improvvisamente troppo ricche per avere la casa popolare. Sì, ricordiamo, insomma, scusa se ti interrompo, perché quella quella dei parametri ISE è un po' è interessante, perché sta di fatto è l'attacco alla povertà che un po' stiamo vedendo, perché è una questione che poi appunto avrà conseguenze, come dici tu, sulle graduatorie delle case popolari, sulle fasce di contribuzione in un'università, insomma ridefinisce proprio lo status di reddito di chi fa la dichiarazione, sostanzialmente. Quindi basta avere la macchina sgarrupata per essere etichettati come, diciamo, proprietari di chissà cosa. Non ho sentito, scusa. No, dicevo che basta appunto avere una macchina qualunque che ti ha dato tua nonna, perché non guida più, e per essere appunto ritenuti dallo Stato cioè ricchi, o comunque non in diritto di avere la casa popolare. Esatto. Comunque appunto contro questa legge già da diversi mesi in varie città della Toscana si è andata articolando un'opposizione molto forte, sia a Pisa che a Firenze che a Livorno, che convoglieranno poi nel corteo di oggi. Oggi doveva essere la data in cui questa legge veniva discussa e approvata dal Consiglio regionale, l'approvazione è slittata anche a causa comunque delle forme di opposizione che si sono date nei territori, ma è stato deciso di mantenere comunque il corteo di oggi, anche perché a Firenze, diciamo così, un anticipo della nuova legge regionale è già stato dato la settimana scorsa con l'inizio di una campagna di sgomberi che ha portato allo sgombero appunto di due palazzine occupate nell'arco di una giornata e quasi 200 persone lasciate in mezzo alla strada sotto la pioggia in piena emergenza freddo. Quindi comunque la risposta di oggi sarà una risposta importante contro questa legge, contro tutti i tentativi di ostacolare il diritto alla casa, di andare a ostacolare i movimenti di lotta per la casa e per ribadire una serie di necessità e ribadire spesso la legittimità della lotta per la casa in Toscana. Sappiamo che questo è il territorio in cui i progetti di Renzi hanno mosso i primi passi e in cui portano avanti le nuove sperimentazioni, e sappiamo che combattere questa legge ha una rilevanza non soltanto regionale ma nazionale, appunto, in quanto potrebbe essere semplicemente un progetto pilota da esportare poi in altre regioni, in altri territori. Da Roma ho visto che stamani i movimenti di lotta per la casa si sono mossi andando a occupare la sede della conferenza regioni, e quindi comunque a maggior ragione il corteo di oggi a Firenze vorrà segnare un altro passo in questa opposizione determinata e dura alla legge Saccardi e al piano casa. Assolutamente, grazie per l'assist rispetto poi a quello che accade a Roma, e dici bene che quello appunto è un sicuramente abbiamo visto che si sono tante cose del laboratorio renziano sono state sperimentate laddove ha avuto il suo primo, diciamo, briciolo, le sue prime briciole di potere quando è cominciata la sua ascesa. Quindi purtroppo noi appunto non possiamo chiedere notizie dal corteo stesso perché ancora non è cominciato, ma sicuramente rimandiamo allo 011 24 95 669 oppure al 346 66 73 263 per qualunque aggiornamento. Insomma, Giuliano, i microfoni di Radio Blackout sicuramente sono appunto sempre aperti a chiunque voglia condividere quello che accade dalle lotte locali. Quindi buon corteo, assolutamente buona risposta a quello che appunto, come ricordavi tu, l'attacco della settimana scorsa. Niente, buona manifestazione, e qualunque, appunto, per qualunque aggiornamento i microfoni di Radio Blackout sono aperti. Va bene, ciao, grazie. Ciao Giuliano, grazie a te. Ciao, ciao. Uno, due, uno, provo i microfoni, questo è il suono che nasce dalla metropoli. Tu alza le mani se ti piace, io brucio il microfono perché ne so capace. Uno, due, uno, provo i microfoni, questo è il suono che nasce dalla metropoli. Tu alza le mani se ti piace, io brucio il microfono perché ne so capace. Provo il microfono per farti smettere, prova il microfono con le tue canzonette fatte per il grande pubblico. Mi chiami compromessi necessari, io li chiamo bei modi per giustificare parrucate esemplari o armi non convenzionali, sferro colpi letali contro canoni di valutazione superficiali. Elimino punti di riferimento imposti, ho rime come rifornimento agli avamposti predisposti per far male, cacciatori di teste perché la battaglia qui è mentale. Selvaggio è lo stile che caratterizza il mio arsenale, contro radio con politiche da centro commerciale. Colle del fomento, rom su non lo batti, per lo scrauso bu come Betty. Giù me metti, scommetti, mettite contro sto toro. Sì, te rispedisco a casa e ti rimanno a far vecchio lavoro. Batti e Chuck Moro, perché boicottano negando spazio, ma questo è solamente un altro screzio. Solo un altro screzio, di certo non l'ultimo, ma resto mo fisso sopra il palco ad aspettarli col microfono. Uno, due, uno, provo i microfoni, questo è il suono che nasce dalla metropoli. Tu alza le mani se ti piace, io brucio il microfono perché ne so capace. Uno, due, uno, provo i magico. Entra adesso, trova forza in ogni nuovo pezzo. Ricomincia dall'inizio il rap, per vizio il mio armamentario. Io sono chiaro, più sveglio, più luce di un faro. Paro tutto quello che tirano, sicuro non segnano. Sicuro che quelli del colle se la spiacciano. Nessuna spia mi fa la spia se sto connesso sul palco. Un microfono e il book, soltanto questo devasto. Qualcosa di più, un altro passo li schiaccia e mi porta più su. Il gioco è questo. Uno, due, uno, prova i microfoni. Questo è il suono che nasce dalla metropoli. Tu alza le mani se ti piace. Io brucio il microfono perché ne so capace. Uno, due, uno, provo i microfoni. Questo è il suono che nasce dalla metropoli. Tu alza le mani se ti piace. Io brucio il microfono perché ne so capace. Brucio microfoni sui tecnici, se tacciano la metropoli. Ci fanno i telefilm per farceli sembrare simpatici. Ma un massiccio sa la differenza fra fiction e realtà. Porta il caos dentro l'ordine della città. Io e Masito connessione simultanea. Collisione sulla via eterea. Quando calo con la flotta aerea. Tuono blu, Apache, pioggia di fuoco. Prendo il mic, salgo per distruggermi il loco. Il mic impazza nella piazza dove sto connesso. Del resto non sono solo un mangiapizza o un mangiapasta. Il rap la mia corazza, la mia salvezza. Il paracadute che mi salva da st'altezza. Credo che tutto va bene, tutto bene, tutte cazzate. E invece le rime che sto portando me le so inventate. Tu fai rate e le tue rime sono sorpassate. Io so che il mic non lo provate. E allora dove cazzo andate a sbattere la testa? Sul palco c'è un DJ che fa da orchestra. So pure qual è la direzione giusta. Confondi, ti credi che mi prendi ma non mi prendi. Ti credi che fai rap ma tu lo offendi. Mandi male la gente, sei come un pusher fedente. Tieni in pugno la gente, io tengo in mano il microfono rovente. Prova, uno, due, uno, prova, prova. Uno, due, uno, prova. Prova i microfoni. Questo è il suono che nasce dalla metropoli. Tu alza le mani se ti piace. Io brucio il microfono perché ne so capace. Uno, due, uno, provo i microfoni. Questo è il suono che nasce dalla metropoli. Tu alza le mani se ti piace. Io brucio il microfono perché ne so capace. Uno, due, uno, provo i microfoni. Questo è il suono che nasce dalla metropoli. Tu alza le mani se ti piace. Io brucio il microfono perché ne so capace. Uno, due, uno, provo i microfoni. Questo è il suono che nasce dalla metropoli. Tu alza le mani se ti piace. Io brucio il microfono perché ne so capace. Dimmi che ti spacco ogni minuto, ogni momento. Il colle, quale colle? Il colle del momento. Dimmi che ti spacco ogni minuto, ogni momento. Sempre sami e spese, sempre pesi e corse. Aprite cassaforti, borse, fuori soldi e risorse. Ne siamo geni e geni, diventano pazzi. Guarda che occhi, che capelli e quanti scazzi. Pazzi, perché vogliamo vincere, questo è il fatto. E vivere anche senza un contratto. Ricordi, Rosarno, quello sarà il destino. E una cassetta di cartone nel campo vicino. Il nemico è duro, è muro contro muro. Quando cade palinuro, e ne ha preso il futuro. E noi cadiamo in tanti, ma avanziamo in 100.000. Apprendimento, insegnamento, insieme, serro le fila. Ma a testa china, la comunità si raffina. Come va? Che facciamo stamattina? La vedo bene oggi, mica stiamo mogi mogi. Facciamo un giro al centro, rimettete gli orologi. Ma che basta oggi, quanta gente all'assemblea. Dall'università al senato le migliori idee. Lì è ressa, polizia al solito ben messa. Pur sempre polizia per definizione. Gente fessa, premiamo sul portone in mezzo alle transille. Ci vogliono i peggesti oltre che le belle penne. È stato bello, a voglia. È stato bello, a voglia. E lo rifamo, a voglia. A voglia. Andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta. Chi che siete lì, andate nelle scuole. Andate nelle scuole, vi ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta. Chi che siete lì, andate nelle scuole. Andate nelle scuole, vi ammazzano più 10 penne che 10 pistole. E sai dov'è l'acqua e dov'è Shiraz. E perché il petrolio va sul gioco, se il solare e il gas. Chi lo sa dove sta, meglio non saperlo. Vogliono che lasci scuola e che ragioni come un merlo. Il cervello non lo ama, chi ha paura, chi reclama. Ma noi siamo Einstein e anche Dalai Lama. E anche Che Guevara, e niente ci separa. Non c'è tetto alle iscrizioni, nelle ambizioni di chi impara. Così imparo arabo, cinese e portoghese. Così va il mondo, gira il mondo, abbiamo più pretese. Se non c'è scambio, non c'è conoscenza. E lo scambio lo vogliamo adesso e non abbiamo più pazienza. Abbiamo sete di sapere, vogliamo bere. Ce ne faremo un mestiere, perché sapere è potere. Noi abbiamo scelto, non molliamo mai. La massa al massimo che sceglie è tra media 7 e Sky. È stato bello, a voglia. È stato bello, a voglia. E lo rifamo, a voglia. A voglia. Andate nelle scuole, formati collettivi. Organizzate la rivolta, finché siete vivi. Andate nelle scuole, andate nelle scuole. Che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Andate nelle scuole, formati collettivi. Organizzate la rivolta, finché siete vivi. Andate nelle scuole, andate nelle scuole. Che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Pubblica, like e solidale. Noi la vogliamo pubblica, like e solidale. A questi gli andrà male. Finché ci siamo noi la scuola sarà sempre pubblica, like e solidale. Sì, e io l'afferro il senso, lo afferro pezzo a pezzo. E leva il crocifisso e il minuto di silenzio. Finché ci siamo noi, a questi gli andrà male. La scuola sarà sempre ricca, like e solidale. E allora 12 e 26 sulle libere frequenze di Radio Blackout abbiamo messo questa canzone in risposta a una richiesta. Prepariamoci alla lotta contro la buona scuola. Saluti ribelli da Mauro. E allora non abbiamo potuto far altro che accontentarlo, soprattutto oggi che diciamo è fresca la notizia della richiesta di svariate condanne per il 14 dicembre. E allora questa canzone che ne parla e che ricorda il momento di rabbia esploso proprio durante la fiducia nell'immediato post fiducia Berlusconi in Piazza del Popolo, che diciamo appunto ecco qui in Piazza del Popolo. Bene, quella rabbia ancora fa paura, perché appunto migliaia e migliaia di studenti e studentesse che in quell'autunno avevano occupato le università e le scuole ancora diciamo sono oggetto degli incubi degli ufficiali giudiziari e quanto pare anzi delle questure, perché rimane appunto, non è solo a quanto pare nei nostri ricordi che quella è una giornata importante. Inoltre 50.000 persone resistettero alle cariche delle forze dell'ordine, urlarono di gioia alla vista di un blindato in fiamme e solo con i caroselli, i vigliacchi caroselli delle camionette si riuscì a disperdere la folla. Oggi, a distanza di quasi 5 anni da quella giornata, si è concluso il processo di primo grado e la vendetta, diciamo, nei confronti delle persone a favore di palazzi e vetrine, come al solito, è puntuale. Il Comune di Roma si è costituito come parte civile e rimane, diciamo, l'unica tra le parti civili a dimostrare che, appunto, non è mai una questione del, appunto, il mero danno in sé o la gravità, perché, diciamoci, appunto, ma è sempre un processo politico. Quindi si vuole attaccare chi ha dato vita a una giornata di che ha visto scendere in piazza una composizione che era chiaramente ingovernabile da coloro che la volevano mansueta e obbediente. Bene, continuiamo appunto del resto. Il 2010 era ben 5 anni fa e sicuramente, nonostante magari non si sia visto un movimento studentesco che abbia saputo esprimere quello che si esprime nel 2010, abbiamo visto l'anno scorso scendere 70.000 persone in piazza per il diritto alla casa, perché comunque appunto come in quel periodo l'istanza studentesca intorno alla formazione dava voce a quello che era una invece erano dei bisogni più ampi, dei modi di vita. Bene, appunto l'asse magari può aver un po' può essersi spostato magari nei quartieri piuttosto che in altri in altre situazioni, ma di certo è il corpo sociale che poi anima quella che è un costante rifiuto delle politiche che si cercano di imporre dall'alto, rimane sempre unito e compatto, e non è importante che si chiamino studenti ed occupanti, di fatto siamo gli stessi e le stesse che ogni giorno cercano di dire no a quella che è l'umiliazione nelle nostre condizioni di vita e si allenano per alzare la testa. Bene, a proposito proprio di chi alza la testa, come dicevamo in apertura, è una storia tutta locale quella dell'ex MOI, in cui appunto la voragine di debito proprio e la sciagura, diciamo, dell'Olimpiade che ha lasciato altro che deserto, è stata ovviamente, come sempre, dal basso ritrasformata in un'occasione di casa, un'occasione di vita dignitosa per tanti e tante che adesso quelle palazzine le chiamano casa. Bene, sappiamo anche che però ovviamente l'auto-organizzazione e diciamo quelle che sono pratiche che escludono i soliti noti, i soliti che godono di profitti stellari su quelle che altro non sono che le nostre vite, non può far piacere, quindi è arrivata la notizia dello sgombero. Allora, ancora una volta, di certo non, ricordiamo anche l'anno scorso il corteo proprio dell'ex MOI, ancora una volta gli abitanti delle palazzine di Lingotto non si sono minimamente scomposti né lasciati intimidire, anzi hanno lanciato una manifestazione il 14 marzo. Siamo in collegamento con Giorgio del comitato. Scusate. Ciao a tutti e tutte. Ciao Giorgio, niente, io ho parlato abbastanza, lascio assolutamente la parola a te un po' per aggiornare chi ci ascolta su quelle che sono effettivamente le vicende, anche diciamo la telenovela che anche un po' in comune si è consumata intorno all'ex MOI, e poi appunto per darci un po' di aggiornamenti in merito al 14. Allora, la telenovela, come giustamente l'hai chiamata tu, è tutto un teatrino interno al comune. Ovvero c'è stata molta discussione all'interno del comune sulla riqualificazione della zona e in particolare sulle arcate, che sono gli edifici a fianco all'ex MOI, una cinquantina di metri, che è stato deliberato verranno dati in concessione, ovviamente gratuita, all'unico potere che diciamo in città ormai ha, dopo la Fiat, ha una certa leva, appunto, ha un certo potere, ovvero l'Università e il Politecnico, che si prenderanno quest'area lì a fianco per fare un polo d'eccellenza. E questa è stata, nell'ambito di questa discussione, la destra torinese, Marrone e la Lega hanno posto una mozione che ha, diciamo, come obiettivo di accelerare i tempi e di, appunto, mettere pressione sulla giunta che... chiedendo in 30 giorni una soluzione per tutte le 800 persone che vi abitano. Ovviamente nessuno ha idea di cosa fare di tutte quelle persone, non ci sono né i soldi né il luogo dove spostarle, è solamente una provocazione interna tra di loro, però è chiaro, quello almeno questa è la nostra analisi, la nostra idea, è chiaro un piano che c'è di riqualificazione del quartiere che non passa tanto attraverso la necessità magari delle persone, degli abitanti, ma è tutto un gioco di rimpallo tra le destre che creano finti comitati di quartiere contro il degrado, contro lo sdegno, come succede anche in altre zone della città, in questo caso Forza Italia e Marrone, Lega in varie forme, a vario titolo, con comitati finti o raccogliendo firme, hanno portato avanti questa cosa, hanno fatto la loro campagna. E l'altra metà del gioco l'ha fatta il PD torinese, appunto chiedendo al Politecnico l'Università di trasferirsi lì, e adesso, notizia di qualche giorno, l'area dall'altra parte dove c'è il Palazzo della Regione verrà data anche lì, diventerà un polo sanitario, la città della salute. E in sostanza tutte queste cose vengono usate per giustificare l'impossibilità della convivenza di rifugiati, anzi direi della più grande occupazione d'Europa, almeno la più grande occupazione auto-organizzata, con i poli di eccellenza. E quindi queste cose vengono giustificate, sono piccoli tasselli messi nel puzzle del degrado che deve scomparire. all'atto pratico non sanno assolutamente che cosa fare e gli occupanti sono molto molto decisi a rimanere lì dentro. Stiamo costruendo assieme la data del 14, la data di questo sabato, cercando di intercettare appunto tutte le forze, tutti coloro con cui siamo entrati in contatto in questo tempo, tutte le persone sensibili all'argomento, non solo dei rifugiati ma anche appunto, come dicevo, perché si inserisce in un percorso più grande, più lungo, più complicato, chi vive sulla propria pelle queste speculazioni, questa gentrification, queste riqualificazioni di quartiere, o come ricordavi, essendo il MOI alla fine il frutto della politica di fondi immobiliari del Comune di Torino, anche appunto per esempio la Cavallerizza non è nient'altro che un esempio di questo schema ciclico che ripropone sostanzialmente l'investimento tramite un fondo e poi l'abbandono. E appunto con tutte queste persone stiamo cercando di costruire la data di questo sabato, dove cercheremo di fare appunto un corteo grande, un corteo simbolico per far vedere al comune che nessuno ha voglia di schiodarsi dall'ex MOI. Bene, Giorgio, sicuramente appunto importante anche il contesto un po' che hai tracciato, perché appunto lo dicevamo in apertura, sicuramente innanzitutto sono appunto due battaglie, quella dell'ex MOI della Cavallerizza, che non saranno vicine geograficamente, sono anche nate in momenti differenti, ma sicuramente hanno fatto in modo di coltivare poi un percorso insieme da che esistono entrambe, e appunto anche la lungimiranza di questa, non solo perché la solidarietà tra le lotte è un'arma potente che abbiamo in mano e che dobbiamo usare continuamente, ma proprio perché sono due pedine importanti di questo giochetto, di questa scacchiera, diciamo, che poi è la Torino della cultura, la Torino dei giovani. Abbiamo visto, e ne parlavamo la scorsa settimana, nella Torino dei giovani, se i giovani si beccano in piazza Cavour per fare il bottillon che magari sono finiti gli esami, arriva la denuncia. E nella Torino della cultura la Cavallerizza viene completamente lasciata a se stessa, però mi raccomando, scandalo sulla barcaccia, offendiamoci tutti, e le palazzine dell'ex MOI vengono vengono appunto levate a effettivamente chi ne ha bisogno, per chi ne ha bisogno, che poi se ne andate a prendere senza chiedere niente a nessuno, ma di che, cioè, scusa, una mattinata di rabbia proprio, veramente, questa presa per il culo costante che viene poi appunto ricoperta di parole che sono valide per tutti, perché poi agli studenti, alla cultura, nessuno dice no, però poi ha i diritti, ha quella che è la dignità che a tutti e tutte dovrebbe essere garantita, dovremmo poter godere, ecco, su quella ci sono dei dubbi. L'unica altra certezza che abbiamo è che comunque 4.000 euro al mese in consiglio comunale, 10.000 in regione, te li prendi. Quindi sicuramente appunto non si può fare altro che rimandare tutti e tutte a questo appuntamento di cui parlavi tu, non si può fare altro che da parte nostra assolutamente appunto dare tutta la solidarietà possibile attraverso le frequenze 105 e 50, ma soprattutto saremo in piazza con voi il 14 ancora una volta per rispedire al mittente quelle che poi di fatto sono appunto cantilene politiche che creano solo il terreno perché vengano tutelate gli interessi dei soliti noti. Ma aggiungo solo una cosa, se non ti dispiace. Figurati. Allora, domani pomeriggio, mercoledì pomeriggio alle 5:30 ci sarà faremo un'assemblea in Cavallerizza per appunto verso il corteo, per iniziare a incontrarci e appunto cercare di connettere tutti questi temi e incontrarsi con tutte le altre realtà che vogliono partecipare, proporre anche contenuti proprio strettamente per il corteo, oltre che a collaborazioni più generali. E appunto l'appuntamento è per domani pomeriggio in Cavallerizza, un incontro informale, non è hai assolutamente fatto bene a ricordare. Hai fatto benissimo a ricordarlo, anzi appunto facciamo eco a questo invito perché appunto come dicevamo prima non solo le lotte sono sempre di tutti e tutte, ci riguardano, ma appunto nello scenario metropolitano poi torinese quella dell'ex MOI è sicuramente una questione paradigmatica. Quindi appunto rimandiamo anche, magari se vuoi lasciare due contatti su appunto il profilo Facebook. Sì, c'è una pagina Facebook che si chiama Ex MOI Occupata Rifugiati e invece l'altra occupazione di Piazza Massawa che è Saletto Occupato. E poi c'è un blog exmoi.wordpress e lì potete andare a vedere anche tutte le nostre riflessioni che pubblicheremo tra poco sullo sgombero e in generale quello che ci siamo detti adesso. Perfetto, grazie mille allora Giorgio. Ti ringrazio, ciao a tutti e a tutte. Ciao. Nel frattempo ci arriva una notizia che aspettavamo da ore, ovvero stanno rilasciando finalmente Judith e Francesca. Merda, infami, bastardi, morite male, vi ammazziamo. E ancora un po', sono le stesse cose che cerchiamo, adesso io lo so. Allora 12:43 sulle libere frequenze di Radio Blackout, stiamo andando verso la chiusura di questa concitata mattinata informativa. Parole Ribelli tra poco vi lascia al GR, ma non prima di aver dato aggiornamenti da Roma. Come diceva Giuliano prima, che sentivamo da Pisa che ci aggiornava sul corteo contro la legge Saccardi, bene, quello che è un attacco di fatto a il movimento di lotta per il diritto all'abitare, la risposta è plurale, come del resto plurale questa lotta. E allora dalla Toscana andiamo a Roma, siamo in collegamento con Michele. Michele, ci senti? Ciao a tutti e tutte. Bene, Michele, se ci dai qualche aggiornamento su quello, sull'iniziativa di lotta che stamattina i movimenti stanno portando avanti. I movimenti per il diritto all'abitare di Roma stamattina hanno deciso di mobilitarsi in solidarietà con quello che sta succedendo in Toscana, quindi il tentativo di far passare la legge Saccardi, una legge che riporta e codifica a livello locale le intenzioni del piano caso del ministro Lupi, aggiungendo un'ulteriore aggravante, che è quella della negazione della possibilità di richiedere la casa popolare per chi ha occupato uno stabile che non sia una casa popolare, quindi un attacco ulteriore ai movimenti di lotta per la casa in particolare. Questa legge chiaramente è un precedente molto grave, e la battaglia quindi che nella regione toscana i movimenti delle diverse città stanno mettendo in campo è una battaglia di tutti e tutte. Abbiamo occupato da un paio d'ore la sede della regione toscana, si trova nel centro di Roma, e siamo saliti provando a capire chiaramente dentro gli uffici anche qual era la percezione rispetto all'approvazione di questa legge. Come al solito siamo trovati di fronte a un muro e per ora stiamo insomma occupando in maniera simbolica la sede della regione. Abbiamo chiamato una conferenza stampa per le ore 13 qui di fronte alla sede per appunto anche lanciare la manifestazione molto importante che ci sarà nelle prossime ore nella città di Firenze a livello regionale contro questa legge. Oggi a Roma c'è stato anche un fatto abbastanza grave relativo alla lotta sugli sfratti, una lotta che continua in maniera forte. Stamattina c'è stato un altro picchetto a Roma Nord, ma per domani ne è previsto uno, un picchetto all'Alessandrino, a una famiglia che già ha subito parecchi accessi, e rispetto a un picchetto proprio dello sportello di Roma Est che si è tenuto a settembre, un picchetto di cui sarà sicuramente arrivato l'eco anche nella città di Torino, dove la celere con i lacrimogeni hanno sgomberato una famiglia. Sono state date 5 obblighi di firma a diversi compagni che partecipano alla lotta contro gli sfratti, alla lotta per il diritto alla casa, relativamente a questo sfratto, un precedente insomma molto grave, perché dopo uno sgombero, uno sfratto avvenuto proprio addirittura con l'utilizzo dei lacrimogeni lanciati dentro un palazzo, si danno le firme a dei compagni pochi mesi dopo. Quindi una giornata parecchio appunto anche qui concitata e piena di eventi relativi alla lotta per il diritto all'abitare, e appunto continuiamo a stare qui, siamo qualche centinaio, anche di fronte a un atteggiamento molto provocatorio delle forze dell'ordine, che appunto dopo che questa mattina sono andati a trovare 5 compagni a casa all'alba, anche qui insomma provano a intimorire un movimento che sicuramente non ha paura, che sa di stare dalla parte giusta e che evidentemente sta subendo un attacco forte e deve anche riuscire a fronteggiare quello che succede in Toscana come nella città di Roma. Bene, il comune di Roma si conferma appunto veramente tra i peggiori, perché abbiamo appunto, leggevamo prima la notizia della richiesta del comune di Roma, che è rimasto unica parte civile nel processo del 14 dicembre 2010, e appunto è chiaro che esige un tributo da parte di chi ha partecipato a quella rabbia. Bene, esige un tributo su quella giornata, e lo esige anche su quella che è la lotta per la casa, che in questo momento appunto è molto viva proprio nella città di Roma. Bene, Michele, grazie mille dell'aggiornamento. Sicuramente appunto al 346-66-73-263 ci puoi scrivere per aggiornamenti, tu o chiunque sia in presidio, e allo 011-2495-669 potete chiamarci. Insomma, i microfoni di Radio Blackout rimangono sempre aperti per qualunque aggiornamento. Grazie dello spazio, ciao a tutti e a tutte. Grazie a voi. E allora alle 12.47, un po' in ritardo e un po' trafelate, questa mattinata di Parole Ribelli con Parole Ribelli va a finire, e continua invece la mattinata informativa di Blackout con il GR. Eddie vi saluta tutti e tutte, anche da Francesca, che ripetiamo in questo momento insieme a Judith sta per essere rilasciata, e la sentirete martedì prossimo, più ruggente che mai e più antifascista che mai. A martedì prossimo, ciao a tutti e tutte, vi lasciamo al GR e a Cattivi Pensieri.